Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Gentile direttore, non pensa che dopo gli ultimi scandali sarebbe opportuno rivedere o magari abolire la legge sul voto degli italiani all'estero? Non si tratta tanto di discutere sulla figura degli eletti, quanto sul fatto che un sistema come il nostro si presta molto facilmente ad abusi e veri e propri brogli, senza dimenticare che avrebbe più diritto a votare, almeno a livello amministrativo, un immigrato che risiede ormai stabilmente in Italia che non a livello politico, un italiano di passaporto che vive ormai stabilmente all'estero. Giuseppe. Caro Giuseppe, penso che la legge sul voto degli italiani all'estero sia, se non da abolire, almeno da rivedere profondamente. È vero che molti paesi consentono il voto per corrispondenza dei cittadini che per brevi o lunghi periodi non vivono in patria, ma nessuno, almeno tra le grandi democrazie, prevede che ci siano rappresentanti eletti direttamente in circoscrizioni estere. Gli italiani all'estero che mantengono un legame con la madre patria devono poter votare, ma eleggendo esponenti presenti nelle liste italiane. E questo perché ogni parlamentare deve difendere gli interessi dell'intero paese e non di una singola categoria di cittadini. Ma la sua lettera pone in evidenza anche un altro problema, quello del voto almeno amministrativo degli immigrati. Ebbene, penso che un immigrato con un permesso definitivo, una residenza stabile e che paga regolarmente tasse e contributi ha più di una ragione per partecipare anche con il voto alla vita almeno del comune in cui vive. Per il voto politico il discorso deve essere naturalmente diverso, perché in questo caso il voto va strettamente collegato al possesso della cittadinanza. E allora la discussione va aperta sulle modalità con cui l'Italia concede la cittadinanza agli immigrati, con l'obiettivo di difendere sia la possibilità di integrazione, sia la necessità di valorizzare l'identità italiana, che non si basa sul colore della pelle, ma sulla lingua, i valori, anche le tradizioni, e che gli immigrati devono non solo rispettare, ma soprattutto condividere. Quando uno conosce bene la legge, risulta capace di muoversi ai limiti della stessa. Il fatto non toglie l'azione. Ciò detto, la conoscenza profonda dei metodi legali permette, quando eventualmente si dubiti della condotta del soggetto, di approfittare dei buchi che il sistema vigente consente in questo paese, per non chiarire la responsabilità o meno del soggetto. Non di meno, la dichiarazione di non colpevolezza nel caso Mills non è acclarata. Giovanni. Le intercettazioni andrebbero pubblicate solo dopo averle verificate. Ma come si fa a pensare che tutto quello che si dice al telefono corrisponda a verità? Chi dice bugie per vantarsi? Chi per compiacere? Chi per liquidare uno scocciatore? Vogliamo giudicare anche chi predica male ma razzola bene? Mario. Non ho la verità e non credo che ce ne sia una assoluta per quanto riguarda il tema delle intercettazioni. Pongo solo questo problema. In un paese in cui tutti i santi giorni il premier attacca la magistratura, non so se ha torto o con ragione, se il pubblico o gli elettori non fossero venuti a conoscenza delle carte, e tra queste anche le intercettazioni, allegate alle richieste di custodia cautelare e agli avvisi di garanzia, come avrebbero potuto reagire? Probabilmente si sarebbe cercato di creare un'ulteriore spaccatura nel paese, tra chi è convinto che la magistratura sia rossa e politicizzata e chi, dall'altra parte, crede nella buona fede dei magistrati e chiede giustizia. Credo, non senza esserne preoccupato, che queste fughe di notizie siano anche utilizzate dai magistrati per giustificarsi davanti all'opinione pubblica per determinati provvedimenti, che vengono puntualmente criticati non in base ai fatti o alle carte, ma semplicemente sventolando le toghe rosse. Sono quindi certo che in questo momento sia necessario che l'opinione pubblica venga a conoscere anche le intercettazioni, altrimenti la magistratura rischierebbe di trovarsi isolata, non solo dalle istituzioni, ma anche dalla popolazione, che è l'unico vero referente della giustizia. Alfredo. Da 15 anni seguiamo delle campagne elettorali tra il grottesco e il greve. I magistrati concorrono pesantemente a non farci mai capire i problemi seri, perché come dei Torquemada scoprono sempre qualcosa di catastrofico da porre al centro dell'attenzione e tutti, ovviamente, vanno loro dietro. Anche il caso Google, a mio avviso, rappresenta un'altra cavolata. se Google è responsabile di non aver controllato il video in oggetto. Le società di calcio dovrebbero di conseguenza essere ritenute responsabili di quello che accade negli stadi e i magistrati e le forze dell'ordine, allo stesso modo, dovrebbero ritenersi responsabili di non prevedere tutti i reati piccoli e grandi che accadono in questa nazione, dato che sono pagati per non farli accadere e per perseguirli. Ippolito. Caro direttore, da un paio di giorni leggo commenti di ogni tipo circa la sentenza di primo grado che ha coinvolto tre manager di Google per il noto caso del video pubblicato su una loro piattaforma pubblica, che è tra le più note, anzi, la più nota in assoluto. Le scrivo perché io con questi mezzi online ci lavoro e so che cosa significa la sentenza di questo processo per quelli come me, perché si deciderà di chi è la responsabilità di ciò che viene postato online. E mi chiedo, io, utente, firmo un contratto di termini e condizioni d'uso ben preciso per aprire un account su YouTube. Accetto che la responsabilità sia sempre e comunque mia, di ogni azione io faccia in questo sito. Si è detto molto, e molto si dirà, ma la domanda che vorrei porle è questa. Nei casi noti, scoperti da Striscia la Notizia, di cartomanti, esperti di lotto e hotline per adulti, in cui si è effettivamente dimostrata la truffa, uno su tutti il caso di Vanna Marchi e soci, non si è mai pensato nemmeno per un attimo di far ricadere una parte della responsabilità a chi quello spazio lo fornisce, cioè le emittenti locali, affamate di investimenti? Perché in quel caso il responsabile del mezzo non è stato punito in alcun modo e anzi è autorizzato a continuare questa attività? Il provider, il fornitore del mezzo, che invece controlla secondo un codice etico proprio, blocca i video pubblicati se gli viene segnalato che sono lesivi o offensivi, collabora con la polizia postale e se riceve una segnalazione, si attiva quanto prima. Perché deve essere ritenuto responsabile del contenuto di ciò che viene pubblicato? Perché la TV spazzatura e truffatrice si difende e il colosso che tenta di tutelarsi no? Fabio, Pavia. Scrivo in merito al disastro nel fiume Lambro, che ora si sta estendendo anche al Po. Da quanto leggo, mi sembra chiaro che la matrice di questo scempio sia dolosa, anche se non capisco a quale finalità. Mi viene tuttavia in mente un suggerimento da inviare al governo regionale o nazionale. Perché non trasformare perennemente l'area offesa in un parco naturale protetto? Sarebbe un bel segno che lo Stato può dare per dimostrare che non subisce passivamente attacchi o ricatti. Inoltre l'idea avrebbe il non trascurabile pregio di compensare in parte la natura per ciò che le è stato fatto. Angelo. Ma con quello che è successo sull'Ambro e che presto arriverà anche nell'Adriatico, col cibo al gasolio che presto i lombardi mangeranno, c'è ancora qualcuno che ha il coraggio di parlare di centrali nucleari? Ma se non hanno avuto remore a sabotare una raffineria, figuriamoci le centrali. Cesare. Qualche giorno fa mi sono recato in un ufficio postale per il pagamento di un bollettino di conto corrente e nel tentativo di ritirare il ticket della mia fila di appartenenza dal totem erogatore ho scoperto che non esiste più la voce conto corrente. Nel contempo, intorno a me, gli utenti litigano e si accapigliano a causa del ritiro errato dei ticket. Una cortese signora mi ha segnalato che per effettuare il pagamento di un bollettino di conto corrente e ritirare il relativo numero avrei dovuto premere il pulsante servizi finanziari. Giunto il mio turno, ho segnalato all'impiegato il disguido in corso, affinché qualcuno provvedesse. Laconica risposta. Nemmeno il direttore può fare qualcosa, perché sono direttive che arrivano dall'alto, e comunque è così in tutte le agenzie di Milano. Sarebbe interessante sapere se è così anche nel resto d'Italia, o se Poste Italiane a Milano ha indetto un concorso a premi dal titolo «Scegli il ticket giusto». Non sarebbe il caso di denunciare alla magistratura, per turbativa dell'ordine pubblico, il dirigente che ha preso questa decisione? Mario. Lo spot che gira da diversi giorni sui canali Rai, ricordandoci di pagare il canone, lancia un attacco, sia pur scherzoso, alla stabilità del matrimonio. Protagonista è Milly Carlucci, che entra in una famiglia dove marito e moglie, affezionati, abbonati Rai, pagano il canone da oltre 30 anni. La Carlucci invita il figlio da poco sposato a seguire le orme dei genitori, ma il figlio ribatte che non aspira a far durare il suo matrimonio quanto quello dei genitori. Non è questo un ulteriore attacco, peraltro nemmeno troppo divertente, al matrimonio? rincresce, ma pur sentendo la RAI ogni giorno più distante, il canone sono comunque obbligato a pagarlo. Chiedo che venga ritirato questo spot. Vittorio. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.